starsene qui sulla scogliera di una vuota città, guardando un po' il mare, pensando a chi non è più con me. E non mi basta questo finto amore che mi accudisce e si cura di me, ma non riesce a riempire quel vuoto che ha lasciato chi non è qui con me. L'amore cos'è? E chiedersi allo specchio tu chi sei? È la tendenza all'infinito che restringerlo o espanderlo di più. Non puoi misurare, ma c'è tutto ciò che vuoi. L'amore sei tu. Dal dolore, dal pianto, l'amore sei tu, grande brivido che sfocia nel mare profondo e poi con l'aurora ritorna a farmi compagnia, mi porta via fino a toccare le stelle e porta via la notte. L'amore sei tu.